sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Taranto blindata, il corteo sfiora la zona rossa, Clinia e Passera in prefettura. Per le borse ancora vento di Ferragosto e blitz d'estate della finanza a Cortina, nel mirino le case in affitto. Pussy Riot, attesa la sentenza, manifestazioni in tutto il mondo per le ragazze che sfidano Putin. Strage nelle miniere sudafricane, i lavoratori protestano, la polizia spara. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati e torniamo subito a Taranto, manifestazioni vietate, ve l'abbiamo ripetuto più volte in occasione della visita dei ministri Passera e Clini, impegnati per tutta la giornata in consultazioni per la vicenda dell'Ilva, ma in piazza sono scesi in migliaia e si è sfiorato anche lo scontro con le forze dell'ordine. Allora, il vertice dei ministri Passera e Clini per l'Ilva di Taranto, l'acciaieria Metsä sta sotto sequestro dalla magistratura per inquinamento, i ministri stanno ascoltando i rappresentanti di regione, comune, provincia di Taranto, poi toccherà a Ilva, Confindustria e sindacati nazionali. È il corteo dei 2000 manifestanti che stamattina si è radunato nel centro di Taranto per dire no all'inquinamento ed esprimere sostegno al giudice Todisco, si è mosso dalla piazza dove ha tenuto la manifestazione ed ha attraversato parte del centro di Taranto raggiungendo una piazza più vicina alla prefettura dove è in corso il vertice. Qui però uno schieramento di carabinieri con scudo e sfollagente impedisce di andare oltre. Il corteo dei manifestanti ha premuto sul cordone delle forze dell'ordine, però non ha oltrepassato la linea rossa. E si è conclusa da poco la protesta dei sindacati che anche oggi hanno manifestato per 2 ore con blocco sulla statale Appia. Sono i lavoratori dell'Ilva che sono iscritti a FIM, CISL e WILM, i quali chiedono di tutelare sia l'ambiente che il lavoro. È tutto per ora, vi restituisco la linea. E grazie allora Domenico Palmiotti. Naturalmente, come dicevamo, l'incontro in prefettura è in corso e allora vi terremo aggiornati anche su cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto è ancora vento di Ferragosto per i mercati, per ora la scia in Europa resta positiva. Il vento caldo dell'estate non sta portando via noi, non ancora almeno. Sta portando via un po' di nuvole e infausti presagi, o forse li sta nascondendo nella calura di questo agosto, arido come non mai. I listini ci regalano una certa spensieratezza, segni positivi, Milano quasi euforica grazie alla brillante performance dei bancari, confortati dalla necessità ormai impellente che Madrid ha di ricevere aiuti per le sue banche. Ma in Europa l'aria non è cambiata e davvero Madrid ha bisogno di soldi e ne ha bisogno subito. Stamattina la Banca di Spagna ha annunciato che i crediti dubbi delle banche iberiche hanno raggiunto a giugno il record del 9,4%, livello che non si vedeva dal 94. L'ammontare delle sofferenze, soprattutto mutui che non possono essere rimborsate, supera i 164 miliardi. Sempre stamattina la Grecia ha fatto sapere che fra marzo e giugno il debito pubblico è aumentato di oltre 20 miliardi, a quota 303. E tanto per tenere accesi i toni di alcuni esponenti politici nord europei, il ministro degli esteri finlandese, membro del Partito Socialdemocratico, partito al governo, ha dichiarato che la Finlandia si sta preparando per un possibile scioglimento dell'eurozona. Nessuno se lo augura, ha detto il ministro, ma dobbiamo essere pronti. Basteranno le parole di Frau Merkel a sostegno dell'euro e della BCE per tenere ancora sotto controllo la situazione? Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. Se Monti ha smentito qualsiasi ipotesi di un prossimo abbassamento delle tasse, restano tra le priorità invece altri tagli alla spesa pubblica ma anche la crescita. Su questo tema c'è già in programma un decreto legge sviluppo bis nel quale dovrebbero confluire due provvedimenti già in preparazione da tempo, quello sull'agenda digitale e quello per favorire lo start-up imprenditoriale. Una possibilità che già arriva per i giovani con le cosiddette imprese a un euro. Non sarà la soluzione alla disoccupazione giovanile, ma è almeno un tentativo per venire incontro a chi ha pochi soldi e qualche idea imprenditoriale. Bastano un euro di capitale e meno di 35 anni di età. Nessun vincolo sull'oggetto sociale. Parte la società semplificata destinata ai giovani. Il Ministero della Giustizia ha scoperto le carte del modello di atto costitutivo e statuto. Poche le richieste da soddisfare. Divieto di trasmettere le quote societarie a chi non ha l'età e obbligo di attribuire l'amministrazione ai soci. Attenuati i timori di chi temeva un uso della società per finalità opache come il riciclaggio. Sul possesso dei requisiti spetterà ai notai vigilare. Giovanni Negri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo il blitz di Capodanno, controlli antievasione a Cortina anche a Ferragosto. La regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, finisce ancora una volta sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Dopo l'operazione anti-evasione dello scorso Capodanno, stavolta l'attenzione degli investigatori si è concentrata sulle case affittate ai turisti che hanno scelto di passare l'estate nella cittadina ampezzana. Agenti in borghese delle Fiamme Gialle hanno fermato diversi vacanzieri chiedendo importi e riferimenti delle agenzie immobiliari o dei privati dai quali le avevano affittate. Non sarebbero emerse particolari irregolarità o affitti in nero. Le informazioni raccolte saranno comunque girate all'Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche fiscali. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno assicura che non c'è nessun accanimento nei confronti di Cortina e spiega che quelli di questi giorni sono stati controlli di routine effettuati anche in altre località di vacanza del Veneto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato catturato questa mattina il super latitante della Camorra Francesco Matrone, 65 anni, a capo dell'omonimo clan, colpito da due ergastoli per duplice omicidio ed inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi. Perquisizioni nell'area di Battipaglia e Montecorvino Rovella, dove si rifugiava, sono ancora in corso. E una maxi operazione nella notte è avvenuta invece in pieno oceano Atlantico. Guardia di Finanza italiana e Polizia spagnola hanno sequestrato 3 tonnellate di cocaina purissima destinata ad essere distribuita in tutta Europa. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Giovanni Interdonato. L'attività è nel quadro del contrasto al traffico internazionale di stupefacenti che la Guardia di Finanza porta avanti e nello specifico in questa occasione l'azione è stata coordinata dal MAUC di Lisbona e dalla DCSA italiana. Le attività si sono svolte nell'Oceano Atlantico nei giorni scorsi e hanno portato al sequestro di 3 tonnellate di cocaina purissima proveniente dal Sud America e all'arresto di 31 narcotrafficanti. La droga proveniva dal Sud America, era destinata alle coste della Galizia per essere distribuita in tutta Europa. L'organizzazione poteva contare una base a Madrid, in contatto anche con narcotrafficanti provenienti da altri paesi europei. Il nostro contributo essenziale al fine dell'individuazione e del contrasto a tutto il traffico è consistito nell'impiego di un assetto aereo della componente aeronavale d'altura della Guardia di Finanza che ha operato nell'Oceano Atlantico e ha consentito di individuare il natante utilizzato per questo trasporto e a orientare l'attività a mare operata dalle forze speciali spagnole. Una strage in Sudafrica, la polizia ha aperto il fuoco contro i lavoratori delle miniere che protestano da giorni e Johannesburg parla di autodifesa. La vita di un africano vale ben poco, oggi come sempre. È il commento del Soweto nel quotidiano che ha dato voce alla battaglia anti-apartheid dell'intelligenza nera e che oggi, dall'alto di 2 milioni di copie vendute, misura con profondo sconforto la strage di Marikana, dove decine di minatori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Le immagini dei fatti fanno il giro del mondo e delle case di tutti i sudafricani. Appaiono chiari nella loro fredda brutalità. Minatori in avanti, forze di polizia schierate pronte a stendere una linea di filo spinato, poi un sussulto, un balzo in avanti che sembra una carica e il fuoco aperto per una manciata di secondi da 20 o forse più armi automatiche. La polizia ha dovuto difendersi oggi la difesa delle SAPS, forte dei 2 agenti uccisi lunedì sullo stesso terreno. Una linea che il presidente Zuma difende mentre promette trasparenza ed esprime cordoglio per le vittime. Sullo sfondo, l'ennesima stagione degli scioperi per il salario, mentre la crisi morde e i prezzi crescono. Come scrive oggi il Sowetan, i problemi economici meritano una guerra, che però deve essere combattuta con le idee e non con la violenza cieca. Il Sudafrica ha già dato. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. Da Parigi a Varsavia, da Milano fino a New York e ovviamente a Mosca e San Pietroburgo sono decine le manifestazioni di solidarietà per le Pussy Riot, le ragazze che hanno sfidato Putin. Dai giudici la sentenza si attende in questi minuti, allora noi sentiamo Antonella Scott. Sì, proprio al tribunale di Kamovniki, lo stesso dove venne condannato Khodorkovsky, si sta aspettando l'inizio della lettura del verdetto del giudice Marina Sirova, e quindi entro questa sera si dovrebbe sapere qual è la condanna che verrà inflitta alle tre ragazze, Nadia, Katia e Masha, che sono state accusate di teppismo e incitato da odio religioso per aver protestato, aver inscenato uno show contro Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore. È un processo che ha riacceso i riflettori sul dissenso in Russia molto di più delle manifestazioni di protesta dell'inverno scorso, perché ha isolato tre volti di ragazze che sono diventate nel mondo, forse più nel mondo che in Russia, comunque anche a Mosca, in Russia, il simbolo dell'affermazione del diritto alla libertà di fronte a un regime repressivo. Sono diventate il simbolo di chi ha avuto il coraggio di parlare contro Putin. Quindi in questa storia si sono incrociati l'intolleranza della Chiesa, uno scontro tra due Russie, quella più tollerante e quella più intransigente, e la lettura della sentenza dirà in che misura Putin è capace o meno di leggere, di trovare comunque un punto di contatto di fronte a questa nuova società che lui stesso ha contribuito a creare. Grazie allora ad Antonella Scott. Allora, dicevamo, la sentenza che dovrebbe arrivare a breve, allora anche su questo naturalmente vi terremo aggiornati. Però restiamo all'estero, perché c'è un altro braccio di ferro tra Giappone e Cina. Che succede allora su questo fronte? Ci racconta tutto Stefano Carrer, buongiorno anche a te. Sì, buongiorno. Se praticamente il governo giapponese, con senso di responsabilità, ha già cominciato a rilasciare gli attivisti cinesi che erano sbarcati nei giorni scorsi nelle isole Senkaku, isole controllate dal Giappone ma rivendicate dalla Cina. Quindi il Giappone non processerà questi attivisti cinesi, li espelle per evitare un'escalation delle tensioni con la Cina. Certo, il governo giapponese esce indebolito dalla vicenda, è sotto accusa da parte di alcuni settori dell'opinione pubblica, specialmente quelli di destra, che lo ritengono un po' troppo arrendevole verso i cinesi. E allora, nei prossime ore cosa dobbiamo attenderci, Stefano, su questo fronte? No, le prossime ore credo che, come è successo in passato, per il momento la situazione resterà come prima. Devo dire, io credo che ci sia una connessione con un altro contenzioso territoriale che ha il Giappone, quello con la Corea. Infatti settimana scorsa il presidente sudcoreano Lee Myung-bak per la prima volta è andato a visitare l'isola di Takeshima, così la chiamano i giapponesi, o Dokdon come la chiamano i coreani, isola controllata dai coreani e però rivendicata dal Giappone. Allora forse i cinesi hanno voluto così manifestare il fatto che, insomma, per loro il vero contenzioso internazionale è quello che riguarda le isole del Mar Cinese orientale, che allora loro rivendicano, insomma. E grazie anche a Stefano Carrer. Torniamo a casa nostra, sarà il fine settimana di Caligola, il sesto anticiclone di quest'estate infinita che tra oggi e domani porterà temperature infuocate. Poi la settimana prossima è già pronto anche Lucifero, il settimo, e dovrebbe essere l'ultimo anticiclone subtropicale sahariano. Insomma, un'estate che ha già battuto tutti i record e che di problemi ne sta creando però anche per la siccità. Lorenzo Barzana, responsabile economico della Coldiretti. La situazione innanzitutto deriva non soltanto dalle alte temperature, ma anche dal fatto che fra l'inverno e la primavera abbiamo avuto una carenza di precipitazioni che sicuramente non ha aiutato. Noi sappiamo che con l'irrigazione solitamente interveniamo, si dice, in soccorso, ovvero sia andiamo a integrare quelle che sono le precipitazioni. Bene, abbiamo delle zone d'Italia dove è quasi un anno praticamente che non piove, e quindi in sostanza non si parla più di irrigazione di soccorso, ma deve essere un'irrigazione continuativa, perché altrimenti le piante non riescono a svilupparsi. Ci sono zone in cui magari si è riusciti a intervenire e a coprire quello che mancava appunto dal cielo, diciamo così, e delle zone in cui invece si riuscirebbe a intervenire proprio in soccorso, e se non piove nel periodo successivo alla semina o nel periodo che anticipa la fioritura, ovviamente ci sono dei grossissimi problemi. E questo è il caso di alcune parti del Veneto, questo è il caso di alcune parti della Romagna, dove addirittura abbiamo la cultura principe di quella che è la nostra pianura, che è il mais, che è oltretutto propedeutica a delle filiere zootecniche di altissimo pregio, come quelle del latte, dei formaggi e della carne, dei prosciutti e altri derivati, i salumi appunto, che hanno avuto grossissimi problemi in fase di fioritura. Addirittura abbiamo delle culture che non hanno differenziato